Li solo ezali se li solo e Mokanga mite ma pebo di ma bango Ilenge mi bale Afrika fiesta Patele ni na bakara Otali bango pe yo nimi Li solo ezali se li solo e Mokanga mite ma pebo di ma bango Ilenge mi bale Afrika fiesta Patele mi na bakara Otali bango pe yo nimi Yeah.